Fammi un po' compagnia, dai baciami adesso. Io non so cosa sia, sto sul depresso. È una noia bestiale che mi prende se solo non ci sei. È una cosa normale o succede solo a me? Dimmi, dimmi, dimmi cos'è, cos'è che c'è? Dimmi, dimmi, dimmi cos'è che c'è tra noi? Forse i troppi impegni che hai è sempre diversi. E questo amore so sì lo sai, non mi va. Cosa credi che sia? E stringimi adesso. Io ti poggio la faccia tra le braccia per un po'. E questa noia bestiale è una storia che passa quando vuoi. Ma c'è una cosa da fare, è pensare un po' più a noi. Dimmi, dimmi, dimmi cos'è, cos'è che c'è? Dimmi, dimmi, dimmi cos'è che c'è tra noi? Io con te credevo di spaccare il mondo, ma mi giro e poi tu dietro non ci sei. Ah, sai che c'è, io ti voglio con me. Andartene via, ribaciami adesso. E dimmi che conto io per te, e dimmelo spesso. E questa noia bestiale, come un vecchio animale cade già. E questa noia che sale, la tua mano toglierà. Che c'è? Dimmi, dimmi, dimmi cos'è che c'è tra noi.